Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ebbene sì, lo confesso, un milione di anni fa sono stata una duraniana convinta, non quelle che avrebbero sposato Simon Le Bon, ma quelle che avrebbero sposato volentieri John Taylor. Perché abbiamo messo Save a Prayer, questa canzone dei Duran Duran? Beh, perché il libro di cui vi parlo oggi ha molto a che fare non solo con i Duran Duran, ma con tutta la musica anni 80, ma soprattutto con gli anni 80. L'autore è Luca Bianchini, il romanzo si intitola Nessuno come noi, pubblicato da Mondadori. Luca, tu ormai sei una vecchia conoscenza, non delle forze dell'ordine ma degli ascoltatori del cacciatore di libri, perché ti abbiamo intervistato per Io che amo solo te, La cena di Natale, Dimmi che credi al destino, Se domani farà bel tempo, Siamo solo amici, sono andata in ordine sparso naturalmente, quindi potete trovare tutte le interviste di Luca Bianchini su radio24.it nella sezione Il cacciatore di libri. In questo nuovo romanzo, Nessuno come noi, dicevo, c'entrano molto gli anni Ottanta, perché è una storia di amicizia e di amori, di formazione, di ragazzi e di adolescenti 16-17 anni, ambientata a Torino e nell'Interland nel 1987. Perché hai scelto di raccontare una storia di ragazzi e l'hai portata un po' ai tempi nostri? Beh, ho trovato il diario, un vecchio diario mio di Linus dell'87, e all'epoca i diari noi li usavamo proprio per scriverci, per appuntarci le cose. Era un libro, non era un diario. Quindi ho chiesto alla mia compagna di banco, una delle poche persone di cui sono rimasto amico da 30 anni, e l'ho chiamato, dico: ma tu per caso hai il diario di Terza? E lei va a ravanare e me lo trova. Io avevo Linus, lei Mordillo. E quindi ho fatto il paragone, l'ho letti per due volte di fila, ma come un libro, talmente erano pieni di roba, e ho detto: ma qua c'è una storia. E avevo voglia di raccontare una storia in cui non ci fossero più i nostri maledetti telefoni. Ci avrei scommesso che era anche questa la ragione. Sì, e poi mi ha fatto ricordare un'epoca in cui ero felice, ma non volevo solo fare una cosa nostalgica. Io quando scrivo le storie sono molto istintivo, non so mai bene perché. Non parto dal presupposto: ah, vanno di moda gli anni Ottanta, allora faccio la cosa degli anni... No, non, veramente, ti do la mia parola d'onore. Ci credo. L'ho fatto perché, boh, ho detto: qua c'è qualcosa. E ci ho messo molto, è stato un parto difficilissimo, perché avevo troppe cose da raccontare e troppi nodi da risolvere della mia adolescenza. Io che venivo dal paesello di Nichelino, che era un paese proprio alle porte super di Torino. Fiat. Esattamente, alle porte di Torino, dove hai ambientato questa storia. Per te sarà stata una fatica probabilmente scriverlo, però per me è stato godibilissimo leggerlo. Confesso a tutti, l'ho letto sul telefonino, perché l'ho letto in anteprima, non esisteva ancora la copia cartacea, e quindi l'ho letto sul mio telefonino e l'ho bevuto praticamente in due serate. Luca, si racconta, dicevamo, una storia un po' di formazione, amore, amicizia. Sì. Parliamo un po' dei personaggi. Sì. C'è Vincenzo, che va benissimo a scuola, tipico bravo ragazzo, che però poverino vive in un ambiente in cui lui non vorrebbe vivere, insomma, in un ambiente molto molto proletario. E c'è la sua migliore amica Caterina, Kate, della quale lui in realtà è segretamente innamorato, ma hanno un rapporto di amicizia meraviglioso. Sì, è un po' quello che avevo io con la mia vicina di banco. Io non ero innamorato di lei, quindi un po' trasfigurato, però questa figura del cavalier servente, ecco, non so mai se è, come si dice, esiste ancora, perché io ho intervistato dei ragazzi di oggi, della Terza, del mio liceo di oggi, perché non volevo scrivere una roba anacronistica, no? E quindi gli ho fatto un'intervista collettiva, e quando gli racconto la trama in anteprima, lui è innamorato della sua vicina di banco, che ama tutti tranne lui diciamo la verità, mi ha detto: ma com'è il nostro compagno di scuola? E io dico: non ci credo. Non è cambiato niente, lui proprio la ama follemente, eccetera. Dico: vorrei intervistare anche lui, me lo chiamate la prossima volta. Ok, lui arriva, e con chi arriva? Con lei, che si autoinvita all'intervista. Lei. E quando io faccio le domande a lui, risponde lei. Fa: no, perché lui è timido, ti dico io. Fantastico. Cioè, hai capito? Sì, 30 anni dopo. Quelle ragazze molto, diciamo, volitive. Noi ogni tanto, diciamo, mettiamo un po' i piedi in testa ai ragazzini che ci stanno dietro. Lui nella foto di WhatsApp, poi siamo diventati amici, ho il suo telefono, ha la foto di lei. E lui fidanzato con un'altra. vabbè, vedo che nulla cambia niente, con il corso del tempo. È la cosa bella che ho imparato. E però c'è un bellissimo rapporto di amicizia fra Vincenzo e Caterina, e poi c'è un'altra loro amica che viene soprannominata Spagna, che è la dark del gruppo. Sì. I tre si fanno chiamare i tre cuori in affitto, come la famosa, diciamo, telefilm, all'epoca si chiamavano telefilm, che andava in voga all'epoca. E mi ha ricordato veramente tutto un mondo, perché effettivamente noi degli anni 70, noi che siamo nati nel 70, quando andavamo a scuola c'erano queste grandi distinzioni, no? Che tu riporti, i paninari, i dark, che probabilmente a Torino e in provincia erano ancora più sentite rispetto magari a Bari, dove sono cresciuta io. Eh sì, poi io andavo in questo liceo a Moncalieri. Allora, dovete capire che intorno a Torino c'è, nella parte sud, c'è Nichelino, Moncalieri e Trofarello. Nichelino la parte proprio Fiat proletaria, dove vivevo io e dove sta Vince. Trofarello la parte un po' più piemontese, un po' proletaria, ma un pochino più provincia classica, sì, barotta. Moncalieri con una parte molto ricca. Il mio liceo era il confine, era un liceo di confine in cui c'erano i bravi della periferia, di cui io facevo parte e me lo dico oggi, e quelli, i figli dei signori della collina, che non sempre erano bravi, anzi molto spesso no. Quindi noi avevamo in classe gente che con me abitava al pian terreno in 55 metri, e i miei compagni della stessa classe che avevano un piano solo per loro, mansardato con vista sulla città. E ricordiamo che per chi abita, cioè che la collina a Torino è il posto, insomma, delle ville, dei ricchi. Lo adesso era. Lo è un po' meno, nel senso che ora hanno paura dei ladri, per cui ti tirano dietro le case. All'epoca era proprio il sogno di tutti. E quello che è stato importante per noi è che è stata una scuola. La scuola non è solo imparare le nozioni. Noi lì abbiamo imparato anche a stare insieme, cioè c'è gente che ti dice: ma vieni alla mia festa dei 18 anni in abito da sera. Tu dici: no, ma non ho l'abito da sera. E l'altro ti dice: ma chiedi a tua madre di prestartene uno. E lei dice: ma mia madre fa l'operaia alla Fiat, non ha gli abiti da sera. Ecco, queste cose oggi secondo me sono più difficili da imparare, perché ognuno va un po' nel suo mondo, no? I figli e queste ricchi. Cose tu le hai raccontate, perché c'è proprio una scena in cui devono andare a una festa dei 18 anni di un quarto amico che si inserisce in questo gruppo e che crea un po' scompiglio. Questo Romeo, che appunto è figlio di papà, fighetto, abita nella collina torinese e, no, adesso senza scendere nei dettagli della trama, crea un po' di scompiglio fra, sì, questi amici, soprattutto fra Kate e Vince. Però alla fine anche Romeo è un buono. Sì, beh, è buono. È solo... Cioè, fa un po' lo spaccone così, sì, però... Ma come tu... Io amo sempre raccontare un po' il cliché, sono affascinato, quindi se uno è ricco deve essere anche bello. Però nel cliché mi piace trovare o l'aspetto umano o la fragilità. Mi piace sempre raccontare che dietro un grande sorriso ci sia un po' di tristezza. I tuoi personaggi sono molto belli, sono descritti bene, si sente che hanno quei 16-17 anni. E mi piace anche come Luca Bianchini descrive i luoghi, gli ambienti. In tutti i tuoi libri hai cambiato spesso città, luogo di ambientazione. Mi ricordo c'era Venezia, c'era uno invece, un altro romanzo che girava fra Saint Moritz, appunto era un figlio, sì, di papà, e così via. C'era Londra. Questa volta appunto c'è Nichelino. Tu dai molta importanza alla descrizione anche dei luoghi per contestualizzare i tuoi personaggi. Ma sì, ho iniziato dopo. Devo dire che, allora, per me scrivere è un viaggio, per cui io non sono uno di quei, cioè ci ho messo non so quanti romanzi per ambientare un romanzo a Torino. Infatti, perché tu sei torinese, sì, ma hai avuto grande successo con per me... Io chiamo solo te, che è ambientato a Polignano. Sì, non ma perché era troppo facile per me raccontare Torino. E allora l'ho fatto ora che sono pronto di fare un viaggio vero anche nella mia città, anche scrivendolo nella mia città, ho detto lo faccio adesso, perché era troppo facile per me prima ed era anche un po' straniata. Scrivi un romanzo, il tuo primo romanzo, racconti Piazza San Carlo, esci, dove vai? In Piazza San Carlo, cioè che viaggio è, no? E invece adesso, un po' con l'aiuto della distanza, è stato perché racconto dei luoghi che si sono trasformati. La piazza Marconi di Torino che racconto ora, non c'è più il capolinea del pullman che noi chiamavamo blu. Che era, sono quelle sorte di autobus che passano ogni mezz'ora, che collegano le varie cittadine, non gli autobus proprio cittadini. Certo. Ecco, per noi era il blu, ci vediamo al capolinea del blu, che è già un po' poetico. A proposito dei luoghi, l'incipit è molto bello. Tu scrivi: la casa dove nasci segnerà per sempre la tua vita. E questo per indicare la stanza proprio in cui vive Vincenzo. Abbiamo detto una casa umile, semplice, una stanza piccolissima. Tu hai detto che è stato bello negli anni Ottanta appunto frequentare quel liceo perché c'era un incrocio di anche di diverse classi sociali, però effettivamente pensi che il contesto in cui cresci, nasci e vai avanti ti può influenzare nella vita? Sì, io ne sono convinto. Ne sono convinto e credo che sia una delle cose che noi dobbiamo un po' accettare e riderci un po' sopra. Cioè io quando, adesso che la mia vita è cambiata, abito in una zona un po' residenziale di Torino, però io sono sempre di Nichelino, per cui sono sempre quello che frega i campioncini in hotel quando vado via. Cioè, se tu sei di Nichelino, cioè ti rimane, ce l'hai dentro Nichelino. Ti rimane questa cosa. Cioè, è come tu sei cresciuto. Ecco, ti rimane. Non è una questione di come stai ora. Tu puoi essere l'uomo più ricco del mondo, ma se vieni da lì, cioè comunque mangerai tutta la pasta nel piatto, non ce la fai. Sì, ti ricordi che la posata va messa così se sei in contesti un po' formali, ma appena ti rilassi in fondo, cioè io i gomiti a tavola ogni tanto mi scappano. Lo sai, basta saperlo. In questo romanzo, dicevamo, ci sono molto gli anni Ottanta, c'è la musica degli anni Ottanta, ma ci sono anche vizi e virtù degli anni Ottanta. Per esempio, tutti questi brand, queste marche dei vestiti che veramente ci perseguitavano quando eravamo, sì, ragazzini, e la felpa Best Company, e il Moncler, e le scarpe, e così colà. Quello è un mondo che adesso forse non c'è più, almeno non credo. È cambiato, io ho parlato con i ragazzi di oggi, e si è trasformato, nel senso che oggi lo status symbol, all'epoca era il piumino firmato, le Timberland, le chiamo così ma non per fare pubblicità, perché, no, perché erano proprio tu dovevi un'icona. Avere le Timberland, sì, e non dovevi avere le Lumberjack, dovevi erano avere da sfigati, i insomma. Jeans di Armani, non dovevi avere, sì, i Carrera, che poi ora i Carrera vanno bene, ecco, all'epoca era così per quelli della mia scuola. Ovviamente oggi è il modello di telefonino, mi hanno detto i ragazzi, quindi ecco, ti dicono: eh no, lui sai, è di ottima famiglia, quindi appena esce il nuovo iPhone i genitori glielo comprano. Porca. Quindi questa è la macchina che hanno loro. Ecco, quello che sono cambiati più dei ragazzi, io incontrandoli oggi, sono i genitori, che sono peggiorati in un modo incredibile. Io sono senza parole, cioè sono tutti sulle chat WhatsApp. Se un insegnante un giorno dice una parolaccia, vanno tutte dal preside. Ma qua non state bene, ragazzi. I figli diventano un po' tonti. Grazie allora a Luca Bianchini, ora in libreria con Nessuno come noi, pubblicato come gli altri suoi libri da Mondadori. Vabbè, ve l'abbiamo ricordato. Anche le altre interviste sono presenti sul sito di Radio 24, da Io che amo solo te a, non so, Dimmi che credi al destino. Ne ho citati due assolutamente a caso. E naturalmente si ritroverà anche questa intervista sull'ultimo romanzo Nessuno come noi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. E ora vi parlo di un romanzo che mi è piaciuto molto. Si intitola Un pappagallo volò sull'Issel, scritto da Kader Abdullah e pubblicato in Italia da Iperborea, la casa editrice specializzata negli scrittori del Nord Europa. Kader Abdullah è iraniano, ma visto che era perseguitato dal regime dello Shah e poi da quello di Khomeini, è stato costretto a chiedere rifugio politico all'Olanda nel 1988. Ora è uno degli scrittori olandesi più noti del paese. Suoi sono romanzi come Scrittura cuneiforme e La casa della moschea, che era stato votato dai lettori olandesi come la seconda migliore opera mai scritta nella loro lingua. Infatti Abdullah, appunto, scrive in olandese. Un pappagallo volò sull'Issel racconta la storia di, diciamo, quattro paesini olandesi che negli anni Ottanta accolgono un gruppo di rifugiati. È un romanzo corale, ci sono molti personaggi. C'è per esempio Mehmed, che inizia una relazione tormentata con una donna olandese. C'è Pari, che lascia invece il marito, inizia a scrivere per un giornale e pensa di trovare la libertà accanto a uomini occidentali. Inizialmente diciamo che gli olandesi accolgono bene gli stranieri, sono incuriositi, li proteggono. Con il passare del tempo però iniziano le tensioni culturali e religiose. Nei suoi libri Kader Abdullah parla spesso di profughi e di come cambia l'identità arrivando in un altro paese. Insomma, è un tema a lui caro. Sentiamo perché. I didn't know immigration. Io non conoscevo il problema dell'immigrazione, ma adesso ho capito che immigrazione significa sia ottenere un cambiamento, sia essere cambiati. You treat the immigration. In questo libro infatti si vede come una piccola comunità olandese reagisce negli anni Ottanta